di maggio e lì per lì mi innamorai. Fu quando lei un dì mi venne incontro lì per lì. Lei mi guardava e lì per lì io la guardai. L'amor sbocciò così in un baleno lì per lì. T'amo, mi disse, e lì per lì non l'ascoltai. Ma quando il dì finì mi diede un bacio lì per lì. Poi tra le rose al chiar di luna a cuor dicemmo sì. E fu così che amor lì per lì fiorì. Lì per lì ticchetta ticchetti, lì per lì da quel giorno ogni dì. Lì per lì fu così che la vita d'amore fu vestita. Lì per lì ticchetta ticchetti, lì per lì ogni notte ogni dì. Lì per lì per la vita così quest'amore ci unì. Baci, carezze e lì per lì ci fidanzammo. Dicemmo il nostro sì e fummo uniti lì per lì. Luna di miele, poi lì per lì noi litigammo. Mi pento di quel sì, quel giorno dissi lì per lì. Lei non rispose e lì per lì non ci parlammo. Ma poi finì così, le chiesi scusa lì per lì. Lei mi sorrise, mi diede un bacio, la nera nuvola svanì e rifiorì l'amor lì per lì così. Lì per lì, lì per lì, lì per lì per la vita così, questo amore ci unì.